catalogherei sotto tre, diciamo, filoni principali. C'è il filone della guerra che non esiste, e quindi non c'è nessun conflitto in corso in Ucraina, i soldati ucraini sono degli attori, le vittime non sono vittime per davvero, i morti di Bucha non sono morti perché, come si vede in certi video, in realtà si muovono, resuscitano, cose di questo genere, e quindi c'è tutto questo filone volto a negare proprio l'esistenza della guerra, del conflitto in corso. Poi c'è un secondo filone che ammette e parla della guerra, ma non è la guerra che tutti gli altri conoscono, nel senso che è un altro tipo di guerra, è un'operazione speciale, che appunto qua si rifà del tutto alla propaganda russa, per colpire determinati obiettivi, come dipende in base alle teorie del complotto. Quindi i seguaci di QAnon dicono che la guerra in Ucraina in realtà è un'operazione di Putin, d'accordo con Trump, che sarebbe ancora il presidente degli Stati Uniti, tra l'altro, per colpire il famigerato deep state, lo sottoprofondo, e per smantellare una rete di pedofili globale. Poi c'è l'ultimo filone che, diciamo, si rifà alla teoria dei cosiddetti biolaboratori, cioè la guerra in Ucraina c'è, ma Putin sta praticamente salvando il mondo perché in Ucraina ci sono dei laboratori molto pericolosi, speciali, dove si stanno fabbricando armi chimiche di distruzione di massa, e quindi in sostanza Putin, nella sua magnanimità, starebbe rispondendo il mondo da un'altra pandemia o da qualcosa di peggio. Queste grandissime linee sono le teorie sulla guerra. Poi ovviamente si intersecano anche tra loro, non sono dei filoni fissi, ma molto spesso si sovrappongono e si alimentano a vicenda. Qual è l'identikit del complottista? Cioè, in quali gruppi sociali queste teorie attecchiscono di più? Ma allora, nel caso di questa guerra, chiaramente le teorie che stanno attaccando di più sono chi ha determinate posizioni politiche, e quindi magari più vicino alla Russia, comunque al modello di potere putiniano. Poi chiaramente nei gruppi antivaccinisti, proprio perché vedono, soprattutto nella teoria dei biolaboratori, una versione aggiornata e ancora più moderna della teoria del Covid creato in laboratorio, e quindi ci vedono un collegamento, e quindi fanno proprio quella teoria e di conseguenza tutte le altre teorie connesse. Poi chiaramente anche gruppi complottisti già rodati come QAnon, oppure in Germania Querdenken, e più in generale i movimenti, diciamo, che si sono forgiati durante la pandemia, soprattutto i movimenti anti-restrizione o anti-lockdown, eccetera, sono fortemente permeabili alle teorie del complotto, e quindi anche in questo caso tutto quel circuito lì, appunto, come scrivevo nella newsletter, si è progettato su tutte le teorie del complotto sulla guerra. Ci sono legami, stavi dicendo, fra quelle che sono le teorie del complotto diffuse in Occidente e quella che è la versione, diciamo, ufficiale del Cremlino su quanto sta avvenendo in Ucraina. Ora, quanto queste teorie sono prodotte da Mosca e diffuse a son di rubli, e quanto invece hanno un'origine in qualche modo autonoma? Quella questione è abbastanza complessa, perché diciamo che è sarebbe facile dire che tutte le teorie nascono per volere del Cremlino, della propaganda russa, ma in realtà non è affatto così, perché ad esempio la teoria sui biolaboratori non è nata in Russia, ma è nata negli Stati Uniti, più precisamente da un account Twitter di un seguace di QAnon, e poi è stata che a sua volta aveva preso delle vecchie teorie, anche prodotte dalla Russia o prodotte in Russia, su armi chimiche, eccetera, e diciamo le ha rimpacchettate seguendo i canoni di QAnon. E poi nell'arco di una settimana è diventata la linea ufficiale della propaganda russa, e anche del Ministero della Difesa, ad esempio, comunque del governo russo. In altri casi, la Russia, ad esempio nel caso dei morti di Bucha, che non sarebbero veramente morti, c'è un fenomeno qui molto interessante. La Russia utilizza delle tecniche, delle teorie complottiste, delle strategie complottiste che sono di derivazione occidentale, che è quella dei cosiddetti crisis actor, che viene sempre usata nel corso di stragi, ad esempio la strage di Sandy Hook, quella elementare. I bambini non erano morti davvero, ma erano degli attori pagati per tutti altri fini, lo stesso Parkland o anche in Europa la strage di Charlie Hebdo. In questo senso la Russia non ha fatto altro che adottare uno stilema complottista, ma chiaramente occidentale, ed è anche per questo che la propaganda russa attecchisce in questo modo, perché chiaramente si rivolge a persone che, diciamo, si riconoscono in questa strategia e usano le st- le stesse metodologie, quindi chiaramente sono simpatetici verso quel messaggio, perché sostanzialmente dice le stesse cose che dicono loro. Queste teorie complottiste sono ampiamente minoritarie nell'opinione pubblica, ma rappresentano comunque un fenomeno significativo. Quali meccanismi portano le persone a crederci, ad aderire, anche quando sono piuttosto strampalate o comunque poco supportate da prove? I meccanismi sono tanti, non c'è un singolo motivo per cui si crede in una teoria, e quando si inizia a credere in una teoria di solito si credono in tutte le altre. Cioè, entrare nella cosiddetta tana del bianconiglio è un percorso, è un processo individuale in cui entrano in gioco tanti fattori diversi, che possono essere l'istruzione, l'educazione, l'età, l'appartenenza sociale, dove sei cresciuti, in che ambiente, che persone sono frequentate, e chiaramente anche l'ideologia politica. Quindi non c'è una singola motivazione, cioè è un fascio di motivazioni spesso appunto correlate tra loro, ma nessuna di queste è decisiva. Quindi credere in una teoria del complotto è, diciamo, l'esito di un percorso, di un processo che può essere anche molto lungo e in cui concorrono molti fattori. Per questo è anche difficile dare un identikit del complottista medio senza cadere nello stereotipo che li vuole appunto come dei mattoidi che stanno ai margini della società con un cappello di carta straniera in testa e cose di questo genere. Potenzialmente chiunque è suscettibile a una teoria del complotto, per questo che hanno anche questo successo nella società, pur essendo un fenomeno non maggioritario.